L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Questa settimana, con l'aiuto della collega Maria Piera Ceci, andiamo ad Ascoli Piceno. Mecetta mia, mecetta, dammi la ferretta, che la pozze da, perché ne me la può da, perché ne me dai lupa, lupa chi me lo da, lupa vada a pernare. Ascoli Piceno. Lasci la costa adriatica e risali la valle del Tronto. Entri in città e la prima cosa che vedi è una torre, ma non una delle 100 torri medievali che le hanno fatto guadagnare il nome di città delle 100 torri. Questa è a strisce bianche e rosse perché è una ciminiera, la ciminiera della SGL Carbon, colosso dell'industria chimica. Quella ciminiera ha dato da mangiare per decenni a generazioni di ascolani, a cui però ha anche impastato i polmoni con i suoi fumi. Produce infatti prima carboni industriali, poi silicio metallico. I vecchi in città raccontano di camion che indisturbati uscivano dalla fabbrica per buttare chissà cosa nel fiume Tronto, proprio lì accanto. Negli anni 90 la crisi, la cassa integrazione e nel 2007 la chiusura definitiva. Che farne ora di questo sito? Immaginate 270.000 metri quadri, l'equivalente di 50 campi di calcio, subito a ridosso del centro storico, lasciati oggi all'incuria. Un gruppo di imprenditori ha deciso di metterci faccia e soldi, costituito il consorzio Restart, e comprare quell'area per riqualificarla. Tre gli obiettivi una volta bonificato il terreno: la creazione di un parco urbano, con anche il recupero delle sponde del Tronto e la costruzione di attrezzature sportive, la costruzione di un nuovo quartiere residenziale che rispetti tutte le caratteristiche della sostenibilità ambientale, la creazione di un polo tecnologico che possa essere la fucina per la creazione di nuove imprese. Capofila della cordata di imprenditori della Restart del progetto Ascoli 21 è l'imprenditore edile Francesco Gaspari. Noi da buoni marchigiani abbiamo comunque avviato questa iniziativa mettendo a disposizione tutte le risorse finanziarie e diciamo umane necessarie affinché il progetto potesse prendere una forma definitiva, una forma cantierabile, diciamo così. Quindi noi fin dall'inizio ci siamo autotassati in base alle capacità di ognuna delle imprese che hanno partecipato al capitale sociale e abbiamo messo a disposizione tutti i soldi necessari per acquistare il sito e per fare tutte le progettazioni che necessarie alla cantierabilità del progetto, all'avvio delle opere. La caparbietà sicuramente non ci manca, cioè nel senso che tutti sono determinati a portare avanti questo progetto. Quanto sì. Vi è costato l'acquisto della Carbon? L'acquisto della Carbon è costato 5.600.000, è costato diciamo tra virgolette solo 5.600.000, anche se è una grossa cifra, proprio perché sapevamo fin dall'inizio che c'era da comunque bonificare il sito e il progetto preliminare aveva stimato un costo di bonifica pari a 35.000.000, quindi diciamo il costo del sito in realtà è il... Era irrisorio, proprio perché comunque i costi, esatto, di bonifica sarebbero stati elevatissimi. Lavoro di bonifica che sarà, oltre che dispendioso, abbiamo parlato appunto di 35 milioni, anche veramente molto importante, perché sappiamo che insomma la produzione della Carbon era particolarmente inquinante anche in tempi in cui c'erano pochi controlli, c'erano poche leggi in tal senso. Voi siete consci di questo problema? Sì, noi abbiamo comunque fatto un lavoro sicuramente molto attento e quindi diciamo siamo assolutamente consapevoli rispetto al tipo di contaminazione, per far sì che appunto quest'area così importante, abbiamo detto come 50 campi di calcio per dare un ordine di grandezza, possa essere restituita alla città e non essere più una cassa da morto che sta lì dentro la città, ma diventa qualcosa invece che venga restituita all'uso di tutti e da questo possa scaturire un volano, per uno dei volani che potrebbero essere messi in campo per l'economia del nostro territorio. Ecco, quando si entra in città, lei lo sa bene, è una delle prime cose che si vede, no? La ciminiera dell'ex Carbon. Lei come le immagina invece anche il panorama, l'occhio della città del domani? Ma io penso, guardi, io penso a un pezzo di città come già ne esistono in particolare nel nord Europa. Ne posso citare uno per tutti perché lo conosco personalmente, quello di Hammarby a Stoccolma, dove da un'area più grande rispetto alla Carbon è stata realizzata un pezzo di città assolutamente vivibile. Una città che offra dunque una qualità della vita migliore, quella che immaginano i circa 40 imprenditori che si sono messi insieme per riqualificare la zona della ex Carbon e hanno messo da parte gli interessi particolari. Bruno Bucciarelli, presidente di Confindustria Ascoli Piceno. Questo progetto ha messo in evidenza nel nostro territorio una voglia di aggregarsi. Cioè quella che sembrava prima una cosa non realizzabile nel nostro territorio, per una sorta di gelosia da parte dell'imprenditore, adesso è diventato un punto di forza. Ecco, però è un momento molto particolare, lo dicevamo, insomma di soldi ne girano pochi, di soldi se ne possono chiedere pochi anche alle istituzioni. La sensazione è che insomma ce la farà questa cordata di imprenditori, perché il momento è davvero molto difficile. Io sono convinto di sì, perché questo progetto parte in primis nel voler restituire un'area alla cittadinanza e poi secondo di dare, tramite questa iniziativa, a ridare lavoro alle nostre imprese. Noi abbiamo vissuto nel passato un periodo di prosperità, forse un periodo più felice di altre province, proprio perché qui nella nostra zona c'erano aziende molto grandi che avevano in questa area anche le teste pensanti. Poi piano piano che è successo? E questa è diventata sempre di più un'area dove le teste pensanti sono andate in altri posti, e tranne alcuni casi che seguitiamo a tenere gelosamente qui nel nostro territorio, accade che qui di teste pensanti ce ne sono poco. Quindi noi speriamo che con questo polo scientifico e tecnologico che ci siamo inventati possano nascere delle opportunità per rilanciare il manufatturiero nella zona. Per l'anima di Cecco Negromante, che in una notte fa precollo ponte, se mi potessi far mio caro amante, casetta bella collo pelo ponte, ma che sarà la mia che ponte romano, questa è la mia che fece l'ascolano. Quindi un'Ascoli più bella, quella che immagina il progetto Ascoli 21, e anche una città dove possa ripartire l'economia. Ma in tempi di vacche magre come questi, istituzioni e imprenditori troveranno i fondi necessari per bonificare il terreno e realizzare il parco, il quartiere residenziale, il polo tecnologico? Non si rischia che alla fine vengano costruite solo palazzine, che rischiano anche di restare invendute? Antonio Canzian, assessore regionale ai lavori pubblici con delega al Piceno. Eh beh, certo, guardi, purtroppo in progetti così ambiziosi il rischio è che si realizzi quello che è più facile e facilmente accessibile. Come le dicevo prima, una parte tra l'altro secondaria del progetto è proprio la realizzazione, come dire, di un parco urbano che prevede anche una edificazione residenziale, oltre ad altre cose. Sarebbe un vero peccato però se ci si fermasse o se fossimo obbligati a fermarci solo su questo. Anche perché tra l'altro in questa città come in altre l'espansione demografica, come lei ben sa, non è affatto all'ordine del giorno, quindi fermarsi solo ad una variante che preveda una espansione urbanistica ancorché modesta, perché più di tanto non potrà essere realizzata in quell'area, sarebbe però solo una resa da parte di tutti coloro che in questo progetto credono. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Il rischio dunque che il progetto Ascoli 21 resti un grande libro dei sogni esiste. Ma come dicevamo, primo passo di tutta l'operazione è la bonifica del terreno che per decenni ha inghiottito materiale inquinante, come ci racconta Paolo Prezzavento, Legambiente Ascoli Piceno. Il terreno è stato utilizzato per decenni, il sito interno della fabbrica, come una vera e propria discarica incontrollata tant'è vero che è cambiata la conformazione della sponda del fiume, c'era una rientranza, invece adesso il fiume fa una curva. Che cosa quindi, è stato buttato in questo fiume, nel Tronto? Beh, sulla sponda del Tronto sono stati scaricati negli anni, nei decenni di tutto, soprattutto rottami, carboni elettrici, pezzi di grafite, scarti di lavorazione, amianto, lastre di Eternit, bidoni, sacchi pieni di pece, insomma c'è un po' di tutto. Non è che alla fine si riusciranno a fare quattro palazzine magari pure invendute e resta tutto lì? Gli stessi costruttori si rendono conto che ormai ad Ascoli si è costruito troppo, la città è cresciuta a zero, quindi non c'è la possibilità di rientrare nei finanziamenti vendendo appartamenti. Voi ci credete in questo progetto? Beh, ci sembra, anzitutto crediamo nel metodo, perché riteniamo che finalmente dopo decenni in cui l'azienda ha fatto quello che voleva, adesso finalmente abbiamo un consorzio di imprese che quantomeno ci ha consultato, insomma, ha voluto ascoltare la cittadinanza, ha voluto ascoltare le associazioni. Noi riteniamo essenziale in tutto questo progetto proprio la parte del parco urbano. Come la vede lei Ascoli del domani? Insomma, entrando in città si vede questa ciminiera adesso che continua a stare lì anche se non utilizzata ed è un po' il simbolo, uno dei simboli della città, accanto alle torri. Quale potrebbe essere il simbolo dell'Ascoli di domani? Beh, secondo noi sarebbe sbagliato far finta che lì in quell'area non ci sia stato nulla, che non ci sia stato un insediamento industriale di industria chimica pesante che ha segnato nel bene e nel male, soprattutto nel male negli ultimi decenni, insomma, la storia della città. Quindi riteniamo che sia sbagliato buttare giù tutto, buttare giù i capannoni e anche alcuni manufatti che possono essere considerati di vera e propria archeologia industriale, come gli altoforni, gli impianti per l'abbattimento dei fumi, insomma, e noi immaginiamo un Ascoli del futuro in cui finalmente questa fabbrica possa convivere con l'ambiente circostante e si possa armonizzare con l'ambiente circostante. Fino ad oggi c'è stato un contrasto stridente fra il centro storico e l'insediamento industriale, fra la ricerca della qualità della vita e l'inquinamento rappresentato da questa fabbrica. Noi immaginiamo un futuro in cui appunto si possa creare un connubio fra l'industria e la natura, creando appunto un parco urbano in cui vengono mantenuti alcuni elementi industriali, come se la natura si stesse riappropriando di questi capannoni, di questi impianti industriali. Per il momento ci fermiamo qui sul progetto Ascoli 21. Per scriverci però vi ricordo c'è il nostro indirizzo email l'altropianeta@radio24.it. Un caldo ringraziamento va alla collega Maria Piera Ceci per la costruzione di questa puntata che dobbiamo a lei. Ci ritroviamo subito dopo la viabilità per proseguire con gli altri nostri appuntamenti, l'intervista e la rubrica articolo 9. L'altro pianeta. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta. Prosegue la trasmissione e come sempre proseguiamo con una intervista. Questa volta andiamo in Sardegna a Villa Sor, 25 km da Cagliari, dove è stato recentemente inaugurato il sistema di serre fotovoltaiche più grande al mondo. Si tratta di un'installazione su 26 ettari che comprende 134 serre coperte da ben 84.000 pannelli fotovoltaici. L'impianto è stato realizzato dalla indiana Moser Bayer con il supporto finanziario di General Electric. A Villa Sor la produzione di energia è attualmente di 20 megawatt, ma l'intenzione è di arrivare a 40 megawatt e gli occupati nelle serre dovrebbero a quel punto essere una novantina. Le serre fotovoltaiche infatti sono impianti che coniugano la produzione agricola e quindi la relativa occupazione con la generazione da fonte rinnovabile di energia. Enrico Pagliarini ha parlato di tutto questo con Andrea Prato, ex assessore all'agricoltura della Regione Sardegna, oggi responsabile del progetto Sardegna CO2.0. La norma nazionale prevede che le serre fotovoltaiche siano attività agricole vere e proprie, quindi obbliga l'imprenditore che realizza un impianto fotovoltaico su serra a coltivare e avere un reddito agricolo superiore a quello energetico. Questo vincolo lo abbiamo solo qua, per cui l'eolico non ha vincoli occupazionali, per cui il fotovoltaico a terra non ha vincoli occupazionali, il fotovoltaico su tetti non ha vincoli occupazionali. Quindi siccome la Sardegna in generale, il sud Italia, ha seri problemi nel mondo agricolo e nell'occupazione giovanile, questa operazione ci permette di creare dei veri posti di lavoro sani, non pubblici, privati, con redditi sicuri per i prossimi 20 anni, in un momento in cui non troviamo altre forme per creare delle assunzioni e del posti di lavoro per i giovani. Quindi questo vincolo normativo e il fatto che se poi le imprese agricole che hanno i pannelli sulla testa non producono più agricoltura che energia, il GSR revoca i contributi, quindi c'è un vincolo forte. In questo caso siamo a Villasor, dove c'è stato un investimento di diverse decine di milioni di euro. Io non penso che l'imprenditore sia così pazzo da non coltivare a rischio che il GSR revochi il contributo, perché a quel punto ovviamente l'impresa non sarebbe più redditizia. Ecco perché abbiamo grandi aspettative su questo. In più, perché noi in Sardegna in particolar modo dipendiamo per l'80% nell'ortofrutta da approvvigionamenti provenienti o dall'Italia o dal resto delle regioni europee e non. Quindi questo è un altro modo per produrci e consumare i prodotti di casa vicini e più sicuri rispetto a quelli che non sappiamo da dove arrivano. Questo è un grande progetto, ce ne sono altri che stanno nascendo? Assolutamente sì, sono tanti, perché ovviamente avendo bloccato noi con un decreto che fu fatto a mia firma tutti gli impianti a terra, perché gli si chiedeva una relazione agronomica che dimostrasse che il reddito agricolo è superiore a quello energetico, in questo sistema abbiamo spostato molti investitori verso le serre e quindi sono diverse decine i megawatt che si stanno allestendo in questi periodi proprio per realizzare delle vere e effettive serre, che tra l'altro successivamente al decreto hanno avuto anche l'obbligo di un incremento della luminosità per creare ancora più opportunità e variegazione nella scelta della tipologia di coltivazione. Quindi più c'è luce più uno può decidere arbitrariamente se fare pomodoro o crisantemi, mentre invece una serra più buia non può fare tutte le colture ma solo una parte. Esiste anche in questo caso un rischio speculazione? Il rischio speculazione esiste, come? Chiedetelo a Vendola. La regione Puglia in questo momento è devastata da impianti a terra, speculatori si sono mangiati la terra, guadagnano un sacco di soldi, non hanno creato un posto di lavoro e non si coltiva. Quindi la speculazione era quella che noi abbiamo bloccato, perché sono circa 480 i megawatt di impianti a terra sul fondo agricolo ai quali noi non abbiamo concessionato la possibilità di realizzare l'impianto. Ecco, ma nel caso delle serre fotovoltaiche esiste anche in questo caso il rischio speculazione? Ma guarda, il rischio speculazione secondo me non c'è. C'è il rischio che qualche furbo, qualcuno che pensa che lo Stato non è presente, non coltivi. Se questo succede non si coltiva, non c'è occupazione, però sta commettendo un reato. È come dire a una persona: non ti do la macchina perché potresti creare un incidente. Cioè, io credo che noi dobbiamo avere fiducia in questi imprenditori e controllarli, perché lo Stato deve magari essere meno presente quando in alcune scelte, ma molto presente quando deve vigilare l'operato del privato. Quindi in questo caso c'è una legge chiarissima. La cosa che deve fare la Regione Sardegna è quella di essere qui presente annualmente, vedere se il bilancio agricolo supera il bilancio energetico e validare l'investimento, altrimenti chiedere al GSR la revoca. I controlli esistono e come sono fatti? Nel decreto legge a mia firma prevedono che l'Agenzia Regionale, la ORE, realizzi i controlli sull'universo degli impianti agricoli autorizzati, anno per anno, dopo un primo anno di sperimentazione. Quindi il primo anno l'azienda non ha vincoli di coltivazione perché deve sperimentare, deve fare dei test, eccetera. Dal secondo anno di vita della serra, anno solare, l'impianto può e deve produrre e la regione può e deve vigilare annualmente e controllare il bilancio per verificare la correlazione tra fatturato agricolo e fatturato energetico. Senta, le faccio un'ultima domanda sull'investimento. Qua stiamo parlando di un investimento di 70 milioni di euro, un investimento quindi importante. A suo parere, come mai stiamo parlando di investimento fatto da stranieri? perché in questo momento accedere al credito per le imprese italiane è quasi impossibile. C'è una situazione di contrazione dei mercati, le banche hanno, da quando c'è stata la crisi dei derivati, grandi difficoltà nella liquidità. L'Unione Europea e le regole di Basilea impongono degli accantonamenti molto importanti che fanno sì che le banche facciano fatica a erogare dei finanziamenti. Ecco perché purtroppo spesso i nostri imprenditori non sono in grado di fare degli investimenti. Quindi non mi preoccupa il fatto che vengano da fuori, mi dispiace di più che le stesse opportunità che noi per legge dobbiamo dare, perché siamo in un mercato aperto, a chi vuole fare investimenti con imprese con sede legale in Sardegna, come è questa. Però purtroppo vediamo che su investimenti di una certa dimensione più delle volte sono investitori fuori. Va detto che la legge che io feci a novembre del 2010, la legge 15 regionale, prevedeva uno stanziamento di 7 milioni di euro che potevano e potrebbero generare 140 milioni di investimenti in fotovoltaico agricolo direttamente all'imprenditore agricolo fino a 200 kW. Questo proprio perché con la difficoltà di accesso al credito, con le garanzie regionali, avremmo potuto noi garantire l'investimento, però purtroppo questa legge, dopo che io l'ho fatta, al momento è ancora lettera morta e spero che prima o poi qualcuno la riesumi. Ed è il momento di Articolo 9, la nostra rubrica dedicata all'articolo della Costituzione che ci dice: la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. Insomma, la nostra rubrica per la tutela di un bene comune. Buongiorno da Marco Carminati. Il nostro paese è circondato dalle acque, è ricco di laghi, è ricco di fiumi, è ricco di sorgenti. L'acqua è qualcosa che ha reso l'Italia uno dei posti più belli del mondo. Però purtroppo le cronache anche di questo autunno ci hanno insegnato come l'acqua può diventare terribilmente pericolosa. C'è qualcuno che della gestione delle acque ha fatto la sua missione e il suo lavoro. E abbiamo in collegamento con noi proprio Giulio Conte di Ambiente Italia. Buongiorno, dottor Conte. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ecco, che lei che è un esperto di gestione della sostenibilità dell'acqua e del coordinatore di un progetto molto importante che si chiama WaterClick e che appunto dà delle direttive molto importanti per gestire questo problema. Ecco, io vorrei sentire da lei, dottor Conte, che cosa significa gestire l'acqua. Dividiamo il nostro argomento in tre parti. Allora, noi possiamo abbattere i consumi e gestire i prelievi, possiamo governare l'inquinamento e poi, come terza parte, possiamo anche governare il rischio idrico. Ecco, cominciamo dal tema: come si fa ad abbattere i consumi e gestire il prelievo? Dunque, il problema dei prelievi, che in Italia sono decisamente troppo elevati rispetto a quello che potremmo permetterci, perché parliamo di diversi miliardi di metri cubi ogni anno, ecco. Riguarda in prima istanza l'agricoltura, che è il maggior consumatore d'acqua in Italia, e per questo noi dovremmo fare delle politiche che puntino sostanzialmente a ridurre le superfici irrigate e a rendere più efficiente l'irrigazione. Il progetto WaterClick però si occupa prevalentemente del tema di come gestire meglio l'acqua in città. Ah. Allora, per ridurre i prelievi noi possiamo agire su due leve principali: la riduzione delle dispersioni di rete, sì, ed è uno dei temi toccati dal progetto, e l'altro, forse meno noto ma ancora più importante, è la riduzione dei consumi. Noi, ogni cittadino italiano consuma in media 200 litri d'acqua ogni giorno. Possiamo agevolmente, introducendo alcune tecniche semplici, portare questi consumi intorno ai 100-120 litri al giorno. Quindi bisogna appunto ridurre naturalmente un po', perché altrimenti questo bene non è eterno. Esattamente. Come si può fare? Si possono usare tecniche molto semplici, come cambiare il riduttore di flusso del rubinetto o della doccia, perché quelli comuni consumano fino a 20 litri la doccia e quelli invece innovativi ne consumano la metà, ma soprattutto cominciare a utilizzare risorse non potabili per gli usi non potabili. Certo. Non è detto che per scaricare un gabinetto dobbiamo usare un'acqua potabile. Certo. Potremmo usare l'acqua di pioggia o potremmo usare l'acqua grigia, cioè quella che viene dalle vasche e dai lavabi, adeguatamente depurata. Esistono oggi delle tecniche che si stanno diffondendo nei paesi del nord Europa e WaterClick presenta proprio questo tipo di soluzioni. Ecco, e per quanto riguarda l'inquinamento invece che cosa è possibile fare? Per l'inquinamento il vero problema è che noi stiamo puntando tutto su grandi impianti di depurazione che però ricevono così tanta acqua che poi quando andate a scaricare gli scarichi di Roma, per esempio nel Tevere, o gli scarichi di Milano nel Lambro, questi quantitativi d'acqua, ancorché depurata, sono troppo elevati perché il fiume possa riceverli. Certo. Allora, il gioco sta nel cercare di distribuire meglio la depurazione. Per farlo bisogna fare impianti più piccoli. Per far funzionare bene gli impianti piccoli, le tecniche convenzionali funzionano non tanto bene e quindi bisogna ricorrere a tecniche innovative che si chiamano fitodepurazione. Ho capito. E quanto, invece, per quanto riguarda il tema che è drammaticamente finito su tutti i giornali, su tutti i mezzi di comunicazione in questo autunno, cioè il rischio idrico del nostro territorio, che cosa è possibile davvero fare? Per il rischio idrico bisogna aumentare moltissimo la capacità di ritenzione dell'acqua di pioggia nelle nostre città. Le faccio un esempio o due. Per esempio, in un comune della Toscana, Castelnuovo Berardenga, sì, è stata progettata una piazza dove tutta l'acqua che cade sui tetti delle case intorno viene raccolta in una cisterna. Questa è tutta acqua che poi non va ad ingrossare il torrente che prima le riceveva. Ecco. Allo stesso modo, per esempio, la piazza centrale della nuova Berlino riunificata è stata costruita intorno a un grande sistema di accumulo dell'acqua di pioggia. Certo. Tutto questo si deve diffondere rapidamente in tutte le nostre città e contribuirà molto anche a renderle più belle e più piacevoli. Dottor Conte, io la ringrazio molto per la capacità di sintesi e per le indicazioni molto precise sui tre temi che abbiamo toccato, cioè l'abbattimento dei consumi e del prelievo, la difesa dell'inquinamento e soprattutto il rischio idrico del territorio. Grazie mille e a tutti gli ascoltatori una buona giornata. È tutto anche per questa puntata dell'Altro Pianeta. Da Laura Bettini grazie per essere stati con noi. Appuntamento la prossima settimana alla stessa ora.